gelosa, fidati di me. I soldi che guadagno vanno pure a te. In fresca di tesoro e pensa sempre che 8 ore di lavoro e tornerò da te. Le fitte nella faccia sotto al mio gilet spiegano l'effetto che tu hai su di me. Non posso farne a meno, scelgo sempre te. Tu sei la mia regina ed io sono il tuo re. Suona la sirena e realizzo che le 8 ore sono passate, eccomi da te. Corro in cucina, apro il frigo e una bella birra bionda guarda fisso me. Sei una bella bionda, mi vicino a te, mi gira più forte e pensa sempre.